gioie, ma non mi basteranno. Là fuori mille coppie, mi chiedo come fanno. Passa la notte, sento già l'affanno. Sparisci prima della colazione, perché tanto ti giuro che l'affetto non so più cos'è. Odio persino me, come potrei amare te? Descriverei me stesso con un foglio bianco, perché di sprecare vocaboli ormai sono stanco. Non devo conquistarti, so come farti mia. A parte il sesso non trovo nessuna alchimia. A volte tutto mi sembra più facile, perde il suo fascino, perdo interesse, è un classico. Riflettere mi manda in panico, sono stordito dalle voci dentro la mia testa che cantano tipo: dimmi perché niente va come volevo io. Forse non c'è più soluzione, non esiste nessun Dio. Invisibili, persi in mezzo alle ombre, mentre il corpo vive dentro l'anima soccombe. Un altro giorno come tanti altri, stessi problemi, stessi drammi. Ed è un periodo che non va, mi sveglio con l'acidità di stomaco e gratto via l'intonaco dalle pareti di questa prigione. Fuori solo grigiore, trito fiori in un cannone per trovare la pace interiore. Mi perdo nell'odore di ogni giornata migliore, nella visione del sole che muore, dando valore alla mia vita, pensando a quanto sia un paradosso che una vita vuota riempia le persone. Palpita il cuore ogni notte, anzi e paure che affogo sotto al piumone. Sarà cinesca chiusa, spiraglio di luce, cerco una scusa per ricomporre i miei pezzi sparsi in giro alla rinfusa. Sai, se la mia musa che ispira ogni canzone, e anche se fa male so che non c'è spiegazione. Mi affido al rumore del mattino che nasce, rinasce l'umore e un'altra volta si riparte. Dimmi perché niente va come volevo io. Forse non c'è più soluzione, non esiste nessun Dio. Invisibili, persi in mezzo alle ombre, mentre il corpo vive dentro l'anima soccombe.